qual è il televisore che cerca un italiano oggi? Beh, in assoluto oggi è un LED. Un LED che oscilla dai 32 pollici ai 40 pollici. Il prezzo non è poi così tanto importante una volta che abbiamo comunque individuato la fascia. E bisogna dire che il 3D, e oggi è la massima evoluzione insieme allo Smart TV, e non ha ancora raggiunto il massimo, perché giusto per darle qualche proporzione, vendite di 100 televisori, 7-8 sono televisori in 3D. Però è fondamentale capire questo, ma il cliente ci sta arrivando, che comunque il 3D è veramente una svolta epocale. Si cerca l'offerta o si cerca la qualità o si cerca di coniugare entrambe? Il cliente è molto intelligente, cerca tutte e tre le cose. Cerca l'offerta, cerca la qualità e cerca ovviamente qualcosa che sia veramente bello anche a livello estetico. Le sembra che i consumatori siano più orientati all'acquisto solo del televisore oppure anche, come dicevamo, a un contorno? Solo del televisore. Quando si acquista un televisore, non dico che ancora un po' si muove la famiglia intera, quindi papà, mamma e figli a seguito, ma siamo lì. Le mode, le tendenze hanno un'influenza sul consumatore oppure si sceglie il prodotto che poi si utilizza? Assolutamente sì, le mode ci guidano. Poi noi tutti vogliamo sempre essere anticonformisti, però in realtà le mode ci guidano. Ma è vista anche come un oggetto di arredamento la televisione in casa, ancora come era una volta? Assolutamente sì, e di questo me ne dispiace, perché uso un paradosso. Oggi il televisore è un amico. Perché la gente oggi si siede, guarda il televisore, lo guarda per parecchie ore al giorno, è diventato il punto focale della famiglia, è un punto importante. Una domanda legata all'attualità. Secondo lei, poiché molta della tecnologia in Italia arriva dal Giappone, il terremoto e gli ultimi eventi che si sono verificati là possono influire in qualche modo su anche le esportazioni e quindi la fornitura di materiale? Io non ho segnali oggi negativi da questo punto di vista.